GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Alberi e pali della luce finiti in strada per le forti raffiche di vento, imbarcazioni soccorse in mare e pioggia, danni per il maltempo in diverse località, ma anche una tregua all'AFA. Sono arrivate a 4 in pochi giorni le aggressioni sugli autobus ai danni dei conducenti, l'ultima a Monfalcone, i sindacati chiedono il DASPO per i responsabili. La regione può vietare la coltivazione di mais OGM. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea risponde al ricorso dell'agricoltore Fidenato confermando la legittimità della legge regionale. Uno degli alpinisti vittima del distacco di ghiaccio dal massiccio della Marmolada viveva a Porcia e lavorava a Pordenone. Con lui c'era la compagna che si è salvata ma è ricoverata in ospedale. Cala il numero degli studenti del Friuli Venezia Giulia ma il numero delle scuole rimarrà lo stesso. Pronta la bozza della nuova programmazione 2023-2026. Slitta di 6 mesi la consegna del nuovo ospedale di Pordenone a causa della carenza di materie prime. Apertura al pubblico tra meno di 2 anni. Federica New York firma un accordo che punta a intercettare nei mercati target per il Friuli Venezia Giulia potenziali operatori economici interessati a investire qui. Inaugurata alla Galleria d'Arte Contemporanea di Monfalcone una retrospettiva del pittore futurista goriziano di adozione Tullio Crali. E da oggi alla chiesa di San Francesco a Udine, Bansky and Friends, che propone un dialogo tra il misterioso artista inglese e alcuni protagonisti del panorama italiano contemporaneo. Le 7:19, buongiorno da Alessandra Zigaina ed Eva Ciuc. Vediamo la situazione del meteo. Il cielo è prevalentemente sereno sulla regione. Queste le temperature registrate alle 6. Trieste 19,5 gradi. Il vento soffia da est-nord-est, dunque si tratta di bora, a 25 km orari. Il mare è mosso con una temperatura di 22 gradi. Gorizia e Pordenone 16, Udine 15. Piancavallo 8, Tolmezzo 14,5, Forni di Sopra e Tarvisio 10, Sappada 9, Montelussari 7,5, Montelozoncolan 9, Lignano e Grado 20 con una temperatura del mare di 26 gradi. Le previsioni, oggi il cielo sereno con vento moderato da nord-est che nel pomeriggio girerà in brezza sulla costa. Sui monti qualche nuvola nel pomeriggio, atmosfera più secca rispetto ai giorni precedenti. Danni e disagi per il maltempo di ieri, ma anche una tregua all'AFA e al caldo torrido degli ultimi giorni, come si avete sentito dalle temperature che abbiamo appena letto. La perturbazione ha colpito soprattutto medio e basso Friuli, ma anche il goriziano con pioggia e forti raffiche di vento. 2 pali della luce sono caduti sulla strada tra Mortegliano e Flumigliano, alberi sono finiti in strada a Bicinico e Lestizza, da Aquileia 1 è finito su un'auto in sosta. Danni anche a Mortegliano, Bertiolo e Flumigliano di Talmassons. A Trieste 2 richieste di soccorso in mare sono arrivate nell'arco di 10 minuti alla Capitaneria di Porto, una per una barca a vela con 4 persone a bordo e una per una imbarcazione a motore con una sola persona a bordo. Per le ricerche è stato impiegato anche un elicottero dei Vigili del Fuoco di Venezia e un mercantile in transito nell'area. L'imbarcazione a motore è riuscita ad avvicinarsi autonomamente alla costa, raggiungendo con difficoltà la sacchetta, con il conducente portato poi in ospedale in evidente stato di shock e con un possibile principio di ipotermia. La barca a vela invece, dopo essere stata rintracciata, è stata scortata fino ad un ormeggio nel porto Franco Vecchio. Un nuovo caso di aggressione ai danni di lavoratori del trasporto pubblico locale, è il 4 in 3 giorni in regione. L'autista di un autobus a Monfalcone è stato insultato da una moltitudine di passeggeri perché il mezzo era troppo affollato. Il sindacato del trasporto pubblico chiede il DASPO per gli aggressori. Presidente, lei è indignata e delusa? Anche arrabbiata. Molto arrabbiata perché si è interrotto un pubblico servizio in un'ora di punta, si è creato un disagio, si è nuovamente utilizzato il servizio pubblico a livello di Far West e questo è inaccettabile. L'azienda che cosa farà ora? L'azienda valuterà le azioni da fare a sua tutela, a tutela dei dipendenti, in questo caso è successo ad un autista, donna, e anche a tutela degli utenti, perché è un servizio pubblico ed è un servizio di tutti. E non può essere che pochi, tanti in questo caso, abbiano con dei gesti scellerati interrotto un servizio di tutti. E quindi cosa vuol dire, cosa farete? Valuteremo delle azioni che passano attraverso una denuncia, attraverso la costituzione di parte civile, attraverso la richiesta di danni, attraverso delle azioni significative che possano in qualche modo tutelare questa azienda dal ripetersi di situazioni come questa. Dopodiché non so se saranno dei deterrenti, ma bisogna iniziare da qualche parte. Da donna, cosa pensa del fatto che di fronte ad una donna si usi sempre un linguaggio sessista? Perché si tollera questo linguaggio sessista e perché è una forma di razzismo nei confronti di noi donne. È anche una forma di ignoranza. Dare degli epiteti a una donna è una forma di grande ignoranza che viene contestata da tutti quanti, ma non così con tanta forza, visto che ogni volta siamo qua a discuterne. Monfalcone, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Così la presidente dell'azienda dei trasporti, mentre gli autisti dell'ATAP di Pordenone tramite i loro sindacati hanno denunciato le condizioni di impiego a cui sono sottoposti e hanno annunciato future proteste se non ci saranno cambiamenti. A causa di pensionamenti ma anche di dimissioni volontarie, gli autisti sono sempre di meno, con conseguenti turni di lavoro che si allungano spesso oltre le 6 ore giornaliere previste dal contratto e dispiegate su 6 giorni alla settimana per una paga, aggiungono i dipendenti, inferiore agli 8 euro lordi all'ora. I sindacati si dichiarano contrari anche alla proposta di ATAP di dotare il personale di telefoni aziendali, perché questo significherebbe dover assicurare una reperibilità 24 ore su 24. La regione può vietare la coltivazione sul suo territorio di mais geneticamente modificato. Secondo la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la legge regionale in materia è legittima. La Corte è intervenuta sul ricorso dell'agricoltore Giorgio Fidenato, che era stato multato per aver piantato grano turco OGM. La Corte di Giustizia Europea ha bocciato il ricorso dell'agricoltore friulano Giorgio Fidenato. Il divieto di coltivare mais geneticamente modificato previsto dalla legge regionale del Friuli Venezia Giulia non è contrario al diritto dell'Unione, se ha lo scopo di evitare la presenza accidentale di organismi geneticamente modificati in altri prodotti e se risulta necessario e proporzionato all'obiettivo. Spetta al giudice nazionale, conclude la Corte, valutare se il divieto persegua effettivamente l'obiettivo di evitare la presenza accidentale di organismi geneticamente modificati in altri prodotti e se la misura sia necessaria e proporzionata per il raggiungimento dell'obiettivo. La vicenda risale al 2015, quando Fidenato, imprenditore agricolo, paladino di battaglie pro OGM, seminò una varietà di gran turco geneticamente modificato in un campo a Coloredo di Montalbano e venne multato per un ammontare di 5.000 euro dai servizi ambientali della regione per aver violato la legge del Friuli Venezia Giulia in materia. Fidenato fece ricorso contro la decisione al Tribunale di Pordenone. A inizio del 2021 il giudice ha inviato domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte dell'Unione Europea, che ora ha pubblicato la sua decisione, bocciando il ricorso dell'agricoltore friulano. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. La sentenza della Corte europea conferma non solo la legittimità di una scelta, ma soprattutto la sua lungimiranza. Questo è il commento del consigliere regionale del PD Cristiano Sciaurli, già assessore all'agricoltura. Il Friuli Venezia Giulia, afferma ancora, non può che caratterizzarsi per l'identificazione tra prodotti e territorio, puntando sulla valorizzazione della sua biodiversità e sulla tipicità di produzioni sostenibili e uniche. Non possiamo piegare la natura al mercato e alla mera convenienza, ma dobbiamo rispettarla. Uno degli alpinisti vittima del distacco di ghiaccio dal massiccio, Tommaso Carollo, viveva a Porcie e lavorava all'azienda rimorchi Bertoia di Pordenone. Si era laureato in scienze internazionali e diplomatiche a Gorizia. Con lui, in quell'ultima scalata, c'era anche la compagna che si è salvata ed è ricoverata in ospedale. Una persona solare, piena di energia, grintosa. Riusciva a creare bei rapporti con tutte le persone in tutti i livelli dell'azienda, in officina, con i suoi colleghi. Possiamo dire una gran persona, una bella persona. Andrea Zambon Bertoi è ancora frastornato da quando lunedì ha saputo della morte di Tommaso Carollo, dipendente dell'azienda di cui è vicepresidente, la Rimorchi Bertoia di Pordenone. Il 48enne di Tiene lavorava lì da 15 anni come responsabile commerciale con l'estero. Io l'ho saputo la mattina, mi ha chiamato sua mamma comunicandomi che Tommaso era disperso, era tra i dispersi. Carollo aveva preso casa a Porcia, ma nel fine settimana tornava nel Vicentino, dove vive suo figlio di 14 anni. A Gorizia aveva studiato scienze diplomatiche, lui che amava i viaggi, in particolare l'Africa. Negli ultimi tempi la passione fulminante per la montagna. Sulla Marmolada si trovava con la compagna, Alessandra De Camilli, rimasta ferita e ricoverata a Trento. Da me veniva a dire, vieni anche tu perché è bellissimo, per cui aveva proprio una grande passione, come in tutte le cose che faceva lui. Quelle che sceglieva di fare, ma anche nel lavoro, era dotato di grande passione. Il suo ufficio è rimasto così come lo aveva lasciato, con gli appunti scritti a mano sul tavolo. In officina, uno dei rimorchi prodotti dall'azienda era stato venduto in Svizzera proprio da Tommaso. Siamo ancora in quel limbo che non sappiamo bene che se è successo, se non è successo, come muoversi, cosa fare, per cui sicuramente quello che potremo fare lo faremo. Per Tommaso. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Novità in vista per studenti e professori della regione. È cominciato il percorso che porterà alla definizione dell'offerta formativa dei prossimi 3 anni. Nel 2019 in Friuli Venezia Giulia si contavano 144.000 studenti dall'infanzia alle superiori dislocati in 167 istituti. Oggi, 3 anni dopo, il numero di istituti non è cambiato, ma il numero di alunni e alunne è diminuito, conseguenza del continuo declino demografico. Sono poco più di 137.600, 6.400 in meno. Il decremento della popolazione studentesca fa sì che la regione debba riorganizzare le proprie strutture, non con la chiusura degli istituti, ma con una ottimizzazione delle risorse. Ad esempio, con la conferma del numero minimo di alunni perché esista un plesso scolastico in aree montane e con minoranze linguistiche, dai 20 per la scuola d'infanzia ai 70 alunni per le superiori. Lo prevede la bozza della programmazione scolastica 2023-2026, un documento tecnico aggiornato ogni anno che pone le basi della scuola del prossimo futuro. Un primo incontro preliminare si è tenuto online fra regione, ufficio scolastico e sindacati. Il testo soddisfa in generale Adriano Zonta della CGIL, che chiede però una maggiore cooperazione fra istituti e di evitare eccessivi accorpamenti. Abbiamo chiesto anche che non ci sia una concorrenza tra scuole, ma che vi sia una rete scolastica coordinata. Abbiamo inoltre consigliato e chiesto alla Regione che vi siano istituti con numeri sostenibili. Non sono pensabili istituti con 2.000-3.000 ragazzi in Friuli Venezia Giulia. Per Teresa Tassan-Viol dell'Associazione Presidi occorre una redistribuzione degli alunni fra i vari istituti, ma senza intaccare la qualità dell'offerta. Il testo prevede anche la nascita di nuove sezioni a indirizzo sportivo nei licei, oltre alle 7 già esistenti, specialmente nell'area della Bassa Friulana. Intanto, approvato definitivamente dalla 4ª Commissione regionale lo stanziamento all'interno della manovra estiva di 3 milioni di euro per intervenire su eventuali carenze di personale scolastico in regione nei prossimi 2 anni scolastici. Ludovico Fontana, TGR Friuli Venezia Giulia. Continuano a Pordenone i lavori per il nuovo ospedale. La consegna è prevista per la fine del 2022, slittando di 6 mesi rispetto all'atteso per via della carenza delle materie prime. Il 2023 sarà un anno di installazioni e collaudi. L'apertura al pubblico dovrebbe avvenire tra meno di 2 anni. Con il cantiere del nuovo ospedale nella fase conclusiva, regione, azienda sanitaria e comune intensificano il dialogo per trovare una soluzione sull'attuale ospedale una volta che sarà dismesso e che comprende un'area molto vasta per un totale di 300.000 metri quadri. Un'intesa di massima già c'è, saranno realizzati parcheggi per personale, visitatori e residenti e aree verdi, oltre a una struttura sanitaria di media intensità. punta ad intercettare nei mercati target per il Friuli Venezia Giulia potenziali operatori economici interessati a investire nel nostro territorio. L'accordo sottoscritto a New York dalla regione con il presidente Fedriga e dall'Agenzia per l'internazionalizzazione delle imprese italiane. Nella stessa giornata il governatore, accompagnato dall'assessore alle autonomie locali Roberti, ha incontrato il gruppo che riunisce i principali operatori italiani finanziari ed economici presenti a New York. A loro sono state illustrate le opportunità che la regione offre sul piano della ricerca avanzata dei parchi tecnologici, anche in questo caso all'interno di un panorama nazionale che vede il Friuli Venezia Giulia come una delle regioni più innovative. Infine Fedriga e Roberti hanno preso parte all'inaugurazione nella sede dell'Istituto Italiano di Cultura di New York della mostra dei mosaicisti Stefano Miotto e Giovanni Travisanutto. A Trieste sono numerosi i cantieri stradali attivi in questi mesi estivi e stanno creando disagi agli automobilisti. Il punto più critico resta la chiusura della galleria di Piazza Foraggi, che complica la vita anche ai negozianti della zona. Il termine è quello, fine luglio. Entro il volgere del mese riaprirà la galleria di Piazza Foraggi a Trieste, assicurano dal comune. Dopo chiusure a intermittenza e qualche ritardo, ora non dovrebbero esserci altre sorprese. Un cantiere, quello della galleria di Montebello, che sta creando più di qualche problema. Bisogna fare un giro molto più lungo. Beh, certo. Bisogna o salire per attraversare il rione di San Giacomo o far la parte bassa della città, e lì ci sono gli autotreni che sono diretti in porto. Speriamo che risolvano la questione in tempi umani, perché sennò è un problema evidentemente. Disagi anche per i commercianti della zona. Sicuramente ha dimezzato il traffico, quindi c'è stato un calo, soprattutto per quel che riguarda il bar. C'era una fermata con 8 autobus, adesso ne passa solo uno, oltre alla quantità di polvere che ci mangiamo e respiriamo tutti i giorni. Ma ci sono anche cittadini più comprensivi. Si sopporta se poi i lavori magari finiscono nei tempi, no, prestabiliti, e se poi ci sarà, insomma, la messa in sicurezza della viabilità che porta a questa piazza, insomma. Fervono intanto gli altri lavori in città. L'estate porta con sé chiusure e cantieri stradali, contando su un traffico viario alleggerito dalle prime ferie e dalla chiusura delle scuole. Il più importante è il cantiere su Corso Italia, tra via San Lazzaro e via Imbriani, verso piazza Goldoni, per il rifacimento del marciapiede. Poi i lavori in fondo a via della Ginnastica, all'incrocio con via Carducci e in largo Sonnino, che chiuderanno entrambi entro fine estate. Trieste, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. La Società Internazionale per la Teoria della Gestalt ha organizzato a Trieste una conferenza scientifica in un momento in cui un numero sempre maggiore di persone soffre di problemi psicologici e richiede l'aiuto di un professionista. Preferisci vini molto profumati? Sei una persona socievole ed estroversa. Hai spesso sbalzi d'umore? Sceglierai vini molto saporiti. A dirlo è una ricerca condotta dall'Università di Macerata che mette in relazione la personalità con la scelta dei vini. Ivana Bianchi, docente dell'Università di Macerata. Se un vino è molto alcolico, se ha una grande ricchezza di sentori, se è persistente, se è tannico, se ha corpo, se è sapido, ecco. E abbiamo trovato che c'è un'associazione fra questi e 5 tratti di personalità che tutte le ricerche di psicologia riconoscono essere fattori fondamentali per distinguere la nostra personalità. Questa è una delle tante ricerche della conferenza scientifica organizzata dalla Società Internazionale per la Teoria della Gestalt, che è ospitata per la prima volta a Trieste. Tiziano Agostini, co-editor della Gestalt Theory. La Gestalt qui a Trieste c'è già dagli anni 50, quando Canizza ha fondato l'Istituto di Psicologia, e quindi poi c'è stata continuità anche nelle relazioni internazionali, per cui e siamo stati sempre presenti nell'associazione con diversi membri. La conferenza prosegue nell'edificio H3 dell'università fino a domenica, quando si parlerà di depressione, malattia che secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità sarà la più diffusa tra meno di 10 anni. Rosa Maria Valdevit, coordinatrice per l'Italia della Gestalt Theory. Una depressione di tipo ansioso è ha un fattore di rischio superiore, è più difficile da curare. Le depressioni si accompagnano ad altre depressioni, abbiamo la depressione sovrapposta a depressione, quindi che cosa facciamo noi? Dobbiamo innanzitutto cercare di avere più risorse da allocare negli interventi psicoterapeutici, anche pubblici, soprattutto pubblici. Dobbiamo collaborare di più, superare la mentalità di scuola ristretta. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. Propone una sintesi dell'intera produzione creativa del pittore Tullio Crali, la retrospettiva Crali Aeropittore, sempre futurista, accessibile da oggi fino al 25 settembre alla Galleria Comunale d'Arte Contemporanea di Monfalcone. Tre capolavori in mostra, incuneandosi nell'abitato, in tuffo sulla città del 1939. Il futurismo e l'aeropittura sono state le grandi dominanti dell'ispirazione artistica di Tullio Crali e le opere della mostra monfalconese ne documentano gli sviluppi. Ritratti in bassorilievo d'alluminio ossidato i padri fondatori del futurismo, Boccioni, Prampolini, Russolo, Sant'Elia e ovviamente Marinetti, cui Crali dedica anche una scultura. Marinetti declama. Questa mostra ci fa vedere come Crali ha voluto consegnarsi alla storia e assegnarsi all'attenzione dei posteri. Perché da pochi mesi la famiglia, le eredi Crali, sono rientrate nella piena proprietà di queste opere scelte da Crali. Su 86 opere, ben 50 non si vedono in Friuli Venezia Giulia da 37 anni. Una sezione dedicata alla sassintesi, composizioni sperimentali con le pietre, una al territorio tra cui troviamo i casoni di Grado, una alle opere polimateriche, una al periodo parigino, ma il cuore della mostra è ovviamente l'aeropittura. Tullio Crali, appunto il maggior aeropittore conosciuto italiano, aveva 76 anni nel 1986, scoprì un mondo assolutamente nuovo per lui e ce lo dice con candore: il mio incontro con le frecce tricolori. E da quell'incontro nacque una nuova aeropittura e c'è una piccola frase che Crali dice nelle sue memorie: quando guardo questo quadro mi chiedo, ma l'ho fatto proprio io? Consentitemi almeno questo, è la prima volta che lodo un mio dipinto, ma questa volta lo faccio con convinzione. È proprio un bel dipinto. Monfalcone, Maurizio Mervar, TGR Friuli Venezia Giulia. Nel servizio avete sentito il curatore della mostra su Crali, Marino De Grassi. E ora parliamo di un'altra mostra che propone opere già entrate nell'immaginario collettivo, è la mostra Banksy and Friends, in cui viene proposto un dialogo ideale tra il misterioso artista inglese e noti artisti italiani, ora protagonisti del panorama contemporaneo. La mostra si potrà visitare da oggi e fino al 18 settembre a Udine nella chiesa di San Francesco, dal mercoledì alla domenica dalle 11 alle 19. Curato in 6 sezioni, l'allestimento ne abbiamo chiesto una presentazione al curatore Pietro Quattriglia Venneri. Sentiamo. Le sezioni sono state organizzate tenendo conto che la prima è interamente dedicata all'artista inglese e racchiude una parte dei suoi, diciamo, lavori più importanti, più significativi. Le altre sono state organizzate mettendo in relazione alcune opere selezionate dell'artista con quelli che sono poi gli artisti che fanno da corollario al maestro inglese. Ad esempio, per quanto riguarda la sezione dedicata a Iago, c'è Girl with Balloon, che viene messa in relazione ad una scultura di Iago, dove praticamente si vede questo braccio che è il braccio della Statua della Libertà americana, che chiaramente tiene in mano un gelato invece che la Fiamma della Libertà, e in entrambi i casi c'è appunto questo rimando a questo braccio che si sospende per richiamare in causa proprio il concetto della libertà, quindi come la ragazza col palloncino vede volare via questo cuore rosso, allo stesso modo il braccio di Iago richiama in causa appunto la scultura americana. O ancora, per esempio, nella sezione dedicata a Pau, il famoso cantante De Negrita, quindi uno dei rocker italiani, l'opera di Banksy viene messa in relazione alla Santa Suerte, elaborata proprio dal cantante italiano, con il legame con il Trade Union, che rimanda al concetto delle donne migranti che arrivano in Italia, e quindi tutto quello che è il loro viaggio, tutta quella che è la loro forza, tutta quella che è la loro spinta nel cercare di dare un futuro migliore sia a se stesse che chiaramente ai propri figli. Maria Spezia, TGR Friuli Venezia Giulia. Piero Marussic e Claudia Gianferrari, un omaggio triestino, il libro scritto da Nicoletta Colombo, Elena Pontigia e Alessandra Tidia, studiose del pittore triestino e amiche della nota gallerista da cui è nato l'allestimento della mostra, visitabile fino al 9 ottobre a Trieste al Civico Museo Sartorio, da giovedì a domenica dalle 10 alle 17. Il libro sarà presentato dall'autrice a Trieste all'antico Caffè San Marco alle 18.30. E ora cinema, sarà introdotta dall'attore Ninetto Davoli la proiezione del film Uccellacci e Uccellini, da lui interpretato nel 1966 insieme a Totò, allestita in occasione del centenario della nascita del regista Pasolini, ricorrendo ad una versione restaurata dalla Cineteca di Bologna. Nella sua presentazione Davoli parlerà di come conobbe e lavorò con Pasolini sul set di Uccellacci e Uccellini e di diversi altri film che lo hanno consacrato come attore dell'opera pasoliniana a Pordenone. L'appuntamento nell'arena all'aperto di Cinema Zero di Largo San Giorgio alle 21.30. Frida Bollani Magoni, pianista, cantante e polistrumentista, figlia d'arte di Stefano Bollani, di cui state ascoltando l'esibizione al Quirinale nel giugno 2021, sarà la protagonista della prima data della 10ª edizione della Rassegna Grado Festival Ospiti d'Autore. Gli altri appuntamenti della rassegna includono Il nome di Madame, che sarà sul palco di Grado il 14 luglio, seguito da quello di Umberto Tozzi con lo spettacolo Gloria Forever. Altra data di rilievo del cartellone, quella con Carmen Consoli, come anche la serata in cui sarà protagonista Alice. I Subsonica e Max Gazzè sono gli artisti con cui la rassegna si concluderà in agosto. L'appuntamento questa sera dunque a Grado, indica Nazario Sario, alle 21.30. La rassegna Un prato in piazza prosegue invece con il chitarrista Steve Burns, che sentite in un'esibizione dal vivo a calcare il palcoscenico con il gruppo dei The New Voices Project, coro gospel della regione diretto dal maestro Rudy Fantin. L'artista, conosciuto sia per il virtuosismo con cui suona la sua chitarra sia per la collaborazione con Vasco Rossi, proporrà brani diventati ormai classici della musica rock. L'appuntamento è a Cividale, in Foro Giulio Cesare, alle 21. L'evento sarà preceduto da un laboratorio creativo con le autrici del libro gioco What Is It, alle 17.30. La 7ª edizione del Festival Itinerante della Conoscenza Dialoghi propone in cartellone il concerto intitolato Quadrante del pianista jazz Armando Battiston, su musiche di tre compositori del jazz del Novecento: Eric Dolphy, John Coltrane e Kurt Weill, a Clauiano, a Villa Foffani, alle 21. Alle 7.46 cominciamo la rassegna stampa, cominciamo con il Piccolo di Trieste, il titolo centrale per un episodio di cosiddetta, se sarà confermata, mala sanità. Bimba di 7 anni in rianimazione per un sondino, la madre accusa, le hanno perforato un polmone, il burlo conferma, aperta un'indagine interna. A fianco la Corte dell'Unione Europea, legittimo vietare il mais OGM, e sopra la grande fotonotizia dedicata al Covid, il titolo riparte la corsa ai tamponi, balzo dei fai da te. Dal colonnino di cronaca, il piano anticrisi di CGIL, il turismo non basta a Trieste, più industria. Via Battisti, 500 firme per valorizzare l'area Piazza Giotti pedonale. Poca legna per i forni, le pizzerie alle prese con l'effetto guerra. E ancora esposto di Gabrovez per il rapper nel cimitero militare. Per le pagine della cultura, il Verdi chiude con il pipistrello che vola alto e poi il richiamo ad un articolo di Pietro Spirito che ha per tema una storia della moda. Era il marzo 1911 quando un stilista viennese decise di testare a Trieste la gonna pantalone. L'apertura del Piccolo di Gorizia, dedicata invece alle aggressioni sugli autobus, i sindacati chiedono aiuto al prefetto, e dal Conolnino di cronaca torna la macchina di gusti di frontiera, adesioni a quota 300. A Marina Giulia festino superalcolico e atti vandalici, e poi la morte di Stefano nel pozzo, le difese pronte per l'appello. La sanità in primo piano del Messaggero Veneto, che nell'edizione di Udine apre con il titolo: i pazienti col Covid saranno ospitati anche in altri reparti, aumentano i contagi, ieri più di 2000 in Friuli Venezia Giulia, ecco come la regione riorganizza il sistema dei ricoveri. Mentre in prima pagina dell'edizione di Pordenone c'è l'ospedale, 2 mesi per decidere la sorte dei vecchi padiglioni. Nella fotonotizia, nelle 2 edizioni, la dedica di Alessandra al manager di Porcia, morto sulla Marmolada: ti amerò sempre. I titoli di cronaca sul dorso del Friuli: troppi, 1500 assistiti per i medici di base, devono calare a 1300. Lega, cambio al vertice, Zilli responsabile dell'area udinese, e poi Lignano sequestrati in spiaggia, lettini e ombrelloni. Nelle pagine di economia, nelle pagine dunque interne al giornale, la decisione dell'ABS di fermare gli impianti approfittando della festa del patrono, causa l'energia costa troppo. Fino a martedì i lavoratori coinvolti in percorsi di formazione. Anche l'Electrolux annuncia 2 nuovi giorni di fermo, il 18 e il 22 luglio. Mancano i microchip. Dall'inizio dell'anno ci sono stati già 40 giorni di stop. Tornando alla prima pagina dell'edizione del Messaggero Veneto di Pordenone, la Corte di Giustizia UE è legittimo vietare la semina di mais OGM, e poi scontro fra 2 auto, mamma e bimbo feriti, soccorsi in elicottero. È successo ieri poco prima delle 19 a Polcenigo. Per estrarre i 2 si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Vista la dinamica dell'incidente, il piccolo è stato elitrasportato all'ospedale di Udine. L'apertura dell'inserto friulano del Gazzettino: Covid, la linea friulana salva la sanità. Il Ministero dà il via libera ai ricoveri nei reparti normali dei malati che hanno solo il tampone positivo ma non i sintomi. Riccardi, giocato d'anticipo, saremo pronti a giorni. In corsia 600 operatori infetti, a rischio gli interventi. Nella fotonotizia il caso GM: era legittimo lo stop a Fidenato. Poi da Udine, nella discarica, un nuovo impianto per il fotovoltaico durerà un quarto di secolo e comprenderà anche opere per riqualificare il quartiere. Edilizia, appello della UIL, preservare il superbonus per la crescita. E ancora dalla regione, assestamento di bilancio, sono spallate in aula, e poi volo Ronchi-Roma, un'odissea friulana. Calcio, Nestorovski, sono felice di restare nell'Udinese. Basket a 2, il serbo Nikolic rescinde con Roseto e diventa il nuovo pivot della Gesteco. Saranno le pazienti oncologiche e i medici aderenti all'iniziativa di sensibilizzazione sul carcinoma mammario organizzata dall'Associazione Donne Operate al Seno, Comitato di Udine, i protagonisti della sfilata di moda della serata ieri, oggi, domani. Il fascino siamo noi, perché cancro sia solo una parola e non una sentenza. Organizzata per celebrare i 35 anni di attività dell'associazione. Doppia la finalità dell'iniziativa, sia per l'attenzione alla prevenzione nella lotta alla malattia, sia nel supporto all'autostima delle donne colpite dal carcinoma. A Udine, in Piazza Libertà, alle 20:30. Appuntamento d'esordio per il ciclo 5 serate in villa, iniziativa organizzata nel segno dell'inclusione che propone musica, ballo e divertimento. L'evento prevede un brindisi augurale, musica a cura dell'Associazione Mondo Caraibico e Artistico a Pordenone, nel parco della Fondazione Arrigo Tallon, alle 19:00. E ora vi segnaliamo qualche altro appuntamento. Ogni biblioteca è un'avventura, storie e racconti dalla Francia. Rassegna estiva dedicata ai più giovani, in programma a Pordenone e a Cordenonce, e prosegue con letture animate con tema storie di draghi e di orchi. A Cordenonce, nel giardino del Centro Culturale Aldo Moro, alle 17. Suns Europe, Festival delle Arti in Lingua Minoritaria, prosegue con l'esibizione di Carwin Ellis, polistrumentista gallese considerato tra i pilastri del pop rock del Regno Unito, ad Artegna, al Colle di San Martino, alle 21. Il Festival Visioni, dedicato a giovani artisti attraverso fotografia, teatro, digital and visual art, multivisione e musica, si apre con Seasons, le stagioni di Vivaldi e Piazzolla, affidate a Igor Zobin, alla fisarmonica, e al quartetto Chagall, grazie ad un arrangiamento inedito accompagnato dalle multivisioni di Giovanni e Claudio Tuti, a Trieste, nel parco del Castello di Miramare, alle 21:15. La rassegna Villa Manina Estate entra nel vivo con lo spettacolo Notre Dame de Paris, tratto dall'omonimo romanzo di Victor Hugo, che andrà in scena alle 21 con il cast originale che debuttò 20 anni fa. La seconda edizione di Trieste Operetta Festival prende il via con Getting Tall in Musical della Trieste Musical Company a Trieste sul palco del Piazzale delle Milizie alle 21. Due le ore di musica per i due atti e i 20 brani cantati dal vivo dai 22 artisti sul palco. Il giornale radio finisce qui, grazie a Vassia Krismancic per aver curato la parte tecnica e a Daniela Sossi per aver collaborato in redazione. A tutti voi ancora una buona giornata da Alessandra Zigaina ed Eva Ciuc. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.